Palazzo d'Accursio. Ma torniamo in Piazza Maggiore, dove il nostro viaggio ha avuto inizio. Tra i segreti custoditi da Palazzo d'Accursio ci sono senz'altro i suoi cortili e le sue stanze, i cui stili eleganti si contrappongono al rigore del suo perimetro. I cortili sono due, uno dei quali, quello sul lato nord-est, è attribuito a Fieravante di Ridolfo ed è caratterizzato da un pregevole porticato in stile quattrocentesco. L'altro, la piazza d'armi del palazzo, vede al centro la cosiddetta cisterna, un pozzo sormontato da un baldacchino di ispirazione neoclassica. Si tratta in realtà di una copia ottocentesca. L'opera originale, realizzata dall'architetto Antonio Morandi, detto il Terribilia, è stata spostata nel 1886 nel cortile dell'Accademia di Belle Arti, dove si trova tuttora. All'interno del palazzo è possibile visitare la serie di sale e di cappelle che si trovano ai piani superiori. La scala cordonata cinquecentesca è attribuita al Bramante e fu inizialmente concepita per permettere l'accesso anche ai cavalli, sui quali i rappresentanti del governo della città potevano compiere trionfalmente la salita. Al primo piano troviamo la Sala Rossa, chiamata così dalle tappezzerie di cui è stata rivestita durante il secolo scorso. Nel Cinquecento questa sala era riservata alle riunioni più importanti del Senato cittadino. Si dice che i sontuosi lampadari di cristallo di Boemia in stile impero, che adornano questa sala, siano stati il dono di Napoleone alla sorella Elisa. È all'interno di questa sala che veniva conservato il Pallione della Peste, dipinto realizzato da Guido Reni su un grande drappo di seta, detto appunto palio, commissionato dalle autorità cittadine come voto alla Madonna del Rosario per la liberazione dal flagello della peste nel 1630. Il pallione è oggi conservato all'interno della Pinacoteca, anche se una copia è presente sul fondo della Chiesa dell'Annunziata. La sala del Consiglio Comunale, un tempo chiamata Galleria del Senato, contiene i pregevoli affreschi settecenteschi di Angelo Michele Colonna e Gioacchino Pizzoli, i quali, sfruttando la tecnica della quadratura, creano una finta prospettiva, dando l'illusione di trovarsi in uno spazio molto più vasto. I soggetti dipinti sono di ispirazione neoclassica, come gli dei dell'Olimpo e le allegorie delle qualità di Bologna, concordia e fedeltà. Sempre al primo piano si trova la Sala d'Ercole, anticamente magazzino delle scorte pubbliche di cereali, in cui è possibile riconoscere l'originario impianto medievale sui rifacimenti 6-700. Il nome della sala si deve alla grande statua in terracotta bronzata con Ercole che abbatte l'idra di Lerna, risalente al 500, e opera di Alfonso Lombardi, lo stesso delle statue del Voltone del Podestà. Probabilmente il soggetto allude alla cacciata dei Bentivoglio dalla città a opera delle truppe pontificie. Al secondo piano, dove un tempo erano gli appartamenti invernali dei cardinali legati, troviamo le sale Urbana e Farnese. La prima si chiama così in onore di Papa Urbano VIII, ma è nota anche come Sala degli Stemmi, dato che contiene le insegne di tutti i cardinali legati che hanno governato Bologna nel corso dei secoli. È attualmente sede delle Collezioni Comunali d'Arte, museo che ospita opere di artisti come Jacopo Tintoretto, Ludovico Carracci, Artemisia Gentileschi e Francesco Hayez. La Sala Farnese era un tempo conosciuta come Regia, perché nella Cappella Attigua, nel 1530, venne incoronato re d'Italia Carlo V con la corona ferrea. In questa stanza è presente un grande dipinto che raffigura una singolare consuetudine dei sovrani francesi, l'abitudine di esercitare a corte presunte facoltà taumaturgiche. La procedura consisteva nell'imporre le mani sulle spalle dei sudditi affetti dal male del collo, una forma di tubercolosi purulenta piuttosto diffusa in Europa nei secoli passati. Un discorso a parte merita la Sala Borsa, che si trova al piano terra e dispone di un ingresso indipendente. Sorge nell'area che era occupata dall'orto botanico creato da Ulisse Aldrovandi nel 1568 e adiacente all'appartamento estivo del cardinale legato. Lo spazio fu convertito a fine Ottocento per realizzare una sala dedicata allo scambio delle granaglie, una borsa per i cereali, appunto. L'aspetto attuale, con le strutture in ferro e l'innalzamento di un secondo piano, si deve alla ristrutturazione in stile Liberty operata ai primi del Novecento. Nel secondo dopoguerra, la sala venne convertita in palasport. Era qui che si tenevano gli incontri di box e le partite di pallacanestro. Utilizzo che venne abbandonato a seguito della costruzione del Paladozza. Dopo decenni di disuso, dal dicembre 2001 ospita l'omonima biblioteca multimediale. I recenti lavori di ristrutturazione hanno riportato alla luce reperti di epoca romana, tra cui quello che era probabilmente l'antico foro, ma anche rovine di civiltà più antiche, come quella villanoviana e quella etrusca, con tracce di edifici pubblici e religiosi che oggi si possono ammirare attraverso il pavimento in vetro. Banca